La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici all'ultima puntata di luglio della Rosa Purpurea per raccontarvi tutto il cinema che c'è anche quest'estate qui da Radio 24. Settimana con quattro uscite sulle quali ci focalizziamo, ma sarà anche una settimana con interviste sul doppiaggio. C'è stato un premio proprio recentemente assegnato a Massa Carrara, ne parleremo, e poi ancora tutto il cinema da vedere in casa. E allora cominciamo con la prima proposta di questa settimana sulla quale vogliamo concentrarci. Si intitola Il fidanzato di mia sorella, la classica commedia, insomma, da pizza sul divano e maxi schermo, ma è anche una commedia molto estiva da vedere nel frattempo al cinema. Una storia che vede insieme Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba. Mi basta solo un minuto quando vedo una persona per capire se voglio stare con lei. Vuoi stare con me? Mio Dio! Ciao! La mia bellissima sorella Olivia. Olivia è il mio favoloso uomo inglese. È da settimane ormai che cerco di dirtelo. Sono incinta. La mia vita era completamente cambiata. Avevo una moglie, un figlio e poi... Sono innamorata di un altro. Perché sei qui, Olivia? Come puoi insegnare il romanticismo quando non sai provare un sentimento vero? È fantastico stare con te. E se quello che abbiamo fatto a Kate non va giù, può anche andare a... Kate! E allora, l'atmosfera è sicuramente di quelle così fluide che ti scorrono tra le mani, gli attori di classe e di carisma. La storia, in breve, il personaggio di Pierce Brosnan è quello di Richard Haig, un professore di Oxford, fascinoso, insomma, è Pierce Brosnan, non è che, insomma, mica paia, cioè ti trovi un professore così. Ovviamente le studentesse soprattutto cadono ai suoi piedi come zanzare stecchite. Lui ne approfitta, gli piace questa situazione ovviamente, e ogni stagione se ne porta a letto 3, 4, 5 di questi trofei. Quello, il trofeo che è in questo momento in auge è una bella ragazza, una sua ex allieva da poco uscita dall'università, che è Jessica Alba, e possiamo capire assolutamente Pierce Brosnan. E cosa succede? Che nel momento in cui la sta aspettando, questo succede proprio nella prima scena del film, arriva nell'hotel, nel bar dell'hotel dove Pierce sta aspettando Jessica, arriva Salma Hayek. Avete sentito nella clip i primi abbocchi. Cosa succede? Che praticamente i due si piacciono molto, però Pierce Brosnan scoprirà che la bellissima Jessica Alba non è niente meno che la sorella della bellissima Salma Hayek, e quindi insomma le sue carte da giocare sono su due tavoli e non sarà facilissimo tenerle tutte insieme. E con noi, come sempre, Boris Sollazzo. Ciao Boris! Salve a tutti. Eccoti qua. Allora, Il fidanzato di mia sorella, pessimo titolo italiano, cioè titolo italiano che vuole andare sul sicuro, sul comodo, come sempre. Adesso saranno tutti uguali, secondo me finiremo con dei titoli tutti uguali per tutti i film praticamente, ma il titolo originale, How to Make Love Like an Englishman, era molto molto più affascinante. Film del 2014, nel cast ricordo anche la presenza di Malcolm McDowell, davvero scatenato nei panni del padre di Pierce Brosnan. Se la si prende, Boris, come una secchiata d'acqua fresca estiva, il film corre via dove deve andare, dall'inizio alla fine. No, soprattutto perché è una secchiata gelata tutto quello che c'è attorno a questo film, nel senso che le altre uscite sono abbastanza deludenti. E qui è vero che in certi casi per fare una commedia estiva, sentimentale, ci vuole poco, e qua ce ne mettono anche di meno, ma alla fine se c'è Pierce Brosnan, c'è Jessica Alba, c'è Salma Hayek, serve anche poco, insomma. Ricorda quelle amichevoli estive in cui le squadre di Serie A vincono con tanti gol di scarto e sembrano giocare benissimo. Probabilmente in un'altra stagione non accetteremmo tutta questa anche scontatezza nella trama, questo rivedere per l'ennesima volta la stessa commedia degli equivoci sentimentali, il gigioneggiare di Pierce Brosnan, il modo lezioso in cui viene esposta la bellezza di Salma Hayek e Jessica Alba. Detto questo, forse i nostri ormoni sono più dediti al romanticismo, forse Pierce Brosnan davvero con quella faccia può fare quello che vuole. Il fidanzato di mia sorella scorre via proprio come una corrente d'acqua tiepida del mare, non vi rimarrà impresso probabilmente se non per le due ore di cena dopo la proiezione. Però fa il suo perché si fonda tutto su questo triangolo, sono tutti e tre abbastanza bravi, giocano su un copione facilissimo, scontato, potreste quasi ripetere, anzi anticipare le battute prima che arrivino. Forse, come hai detto tu, l'unico momento di reale imprevedibilità è Malcolm McDowell, che a mio parere è stato proprio preso per quello come guastatore, probabilmente neanche il regista sapeva cosa avrebbe fatto per bene. Interessa che, insomma, ormai il cinema, eravamo arrivati a un punto in cui c'era un cinema della terza età, no? In cui l'amore degli anziani, i sentimenti degli anziani, la vita degli anziani era stata sdoganata dopo tanti anni in cui la terza età non c'era. Attori ma anche personaggi dopo i 50 anni scomparivano. Adesso c'è, diciamo, la senilità, no? La voglia di sessantenni piacenti, 65 anni, di ritrovare la gioventù attraverso il rapporto con lo studentesse, se vogliamo anche il quarantenne Joaquin Phoenix di Woody Allen, che abbiamo visto qualche mese fa, non è molto diverso. È un film, insomma, adatto all'uso, ecco, questo è sicuramente, con tre bravi attori ci basta, a luglio ci basta. Assolutamente, ecco. Beh, mettiamoci appunto anche Malcolm McDowell, che è sempre, come hai detto giustamente tu, il guastatore della situazione. Sai cosa c'è, che Boris, che questi sono i classici film rifugio, cioè ci sono film sui quali sai già cosa succederà dall'inizio alla fine, però se sono portati avanti con le coordinate giuste del pacchetto confezionato come si deve, sai anche che alla fine non ne resterai deluso. È una settimana da film rifugio questa, perché vedremo anche fra poco Il luogo delle ombre, piuttosto che Il ragazzo da porta accanto, cioè ingredienti già molto consolidati, messi al punto giusto, non ci si sorprende sicuramente, ma molto spesso non ci si delude, e questo, se vuoi Boris, è un modo, come dire, di attirare al cinema. C'è gente che va al cinema un po' sul sicuro, a cercare qualcosa che non lo spiazzi troppo. Mi sembra che questa sia la pellicola giusta per questo pubblico. No, qua proprio non verrete mai spiazzati, nel senso, il momento in cui vedete Salmai è che sai che cosa succederà con Pierce Brosnan, nel momento in cui arriva Jessica Alba, indipendentemente dal fatto che, se state ascoltando noi, lo sapete, ma capirete immediatamente che cosa ha da dirgli. Però ripeto, insomma, è veramente, riprendendo la metafora calcistica, è come un modulo ben fatto, una triangolazione ben fatta, è un tiki taka, ecco, può anche arrivare ad essere noioso, però poi alla fine il gol lo fa. Assolutamente, il gol lo fa. Allora Boris, rimani qui e vediamo se fanno gol fra poco anche Il ragazzo della porta accanto e Il luogo delle ombre. Per il momento invece viabilità. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, la rosa purpurea prosegue con le novità al cinema di questa settimana. Adesso ci facciamo gelare, prima abbiamo parlato di secchiata d'acqua fresca per la commedia Il fidanzato di mia sorella, adesso ci facciamo gelare invece dal brivido, sempre che ce ne sia abbastanza, di un thriller di Rob Cohen che si intitola appunto Il ragazzo della porta accanto, nel cast Jennifer Lopez e Ryan Guzman nei ruoli di protagonisti. Sentiamo la clip. Sono passati 9 mesi e non hai ancora divorziato. Ti tradisce con la segretaria ogni volta che vai in ufficio. Tirala più su! Faccio io. E tu sei? Noah. Lei è bellissima. Ti prego, resta qui. Sono noi. Ascolta, Noah, è stato un attimo di debolezza. Finiamola qui. Tesoro, non devi più vedere Noah, ok? Che succede? Perderò il mio lavoro, mio figlio, la mia vita. Sta lontano da me e sta lontano da mio figlio! Non posso farlo, Claire. Abito alla porta accanto. Una madre da poco separata, Jennifer Lopez, un vicino di casa molto più giovane ma assai avvenente, una sorta di toy boy della quale la donna circa quarantenne si innamora. I due, come dire, procedono in questa relazione che però presto comincia ad avere dei contorni torbidi, e quando Jennifer Lopez e il suo personaggio cerca di interromperla, chiaramente le cose non andranno esattamente come previsto. Boris, se prendi un po' di attrazione fatale, ci metti di fianco delle pillole di One Hour Photo e shakeri bene, viene fuori Il ragazzo della porta accanto. Molto sbiadito, però hai ragionissimo, ho avuto anch'io questa impressione, ma anche qua siamo sul discorso del prendere degli ingredienti sicuri, fare una ricetta semplice e darla allo spettatore. In questo caso, se vogliamo, ci mettiamo anche un po' di fantasia erotica spicciola, perché Jennifer Lopez è vicina di casa, l'adolescente che gli abita accanto è viva, insomma, potete immaginare, c'è un canale telematico molto famoso che alimenta queste fantasie. E, certo è che di attrazione fatale di One Hour Photo il ragazzo della porta accanto non ha né il senso dell'angoscia, ricordiamo attrazione fatale, quanto portava all'estremo quel piccolo momento di debolezza, lo portava alle estreme conseguenze, portandogli un senso di angoscia, di follia, di ineluttabilità che il ragazzo della porta accanto non ha. E lo stesso One Hour Photo non dà quell'inquietudine del cattivo che non si immagina tale, che vorrebbe insomma ammantare il ragazzo della porta accanto. Il ragazzo della porta accanto è appunto una fantasia erotica adolescenziale o come dire post matrimoniale nel caso di Jennifer Lopez, che si incontra in un momento tra l'altro in cui questo non fa più scandalo, insomma, non riesce nemmeno più ad attirare quel tipo di pruriginosità che magari anche solo 5-6 anni fa avrebbe raggiunto. Il film anche in questo caso procede in maniera diligente, spesso noiosa. Jennifer Lopez si conferma un'attrice piuttosto mediocre, per cui tutto quello che lei ci dovrebbe comunicare, cioè il fatto che un errore crei un effetto valanga, non ci fa altro che far provare simpatia per l'antipaticissimo adolescente con cui è andata a letto una sola volta. E, tra l'altro appunto si parla di rapporti di buon vicinato, avrebbe forse potuto anche continuare visto le conseguenze che gli porta avanti. E devo dire che rispetto al fidanzato di mia sorella non c'è il carisma degli attori e la sceneggiatura è scritta un po' peggio, e quindi qui mi sento di non consigliarlo, nel senso che oltre ad essere scontato in gran parte non riesce nel suo intento, non riesce ad attrarti, a portarti con sé, ma ti lascia fuori, e spesso diviene più facile fare la parodia mentre stai sulla poltrona di quello che stai sentendo che esserne coinvolto, come comunque il fidanzato di mia sorella fa. E tra l'altro hai detto di Jennifer Lopez, Boris, va considerato che Jennifer Lopez e Salma Hayek, che era protagonista, un po' nello stesso ruolo, se vuoi, un po' con le stesse caratteristiche nel film Il fidanzato di mia sorella, sono quasi coetanee, hanno entrambe 3 anni di differenza, insomma, una 45 e l'altra 48. È un modo anche del cinema americano ormai di utilizzare questo tipo di icone sexy di 10-15 anni fa e di riportarle in auge con il ruolo, hai usato prima tu la parola guastatore per McDowell, ecco, con il ruolo di guastatrici sessuali in un certo senso, no? Sì, guastatrici sessuali, non c'è paragone tra Salma Hayek e Jennifer Lopez. Salma Hayek ha un carisma per cui tu credi che la bellissima Jessica Alba possa comunque passare in secondo piano per Salma Hayek, che non è un fatto di bellezza, è proprio un fatto di fascino. Jennifer Lopez non riesce ad avere quel carisma, però è vero che in qualche modo l'immaginario cinematografico ed erotico è cambiato, e quindi quello che era un sex symbol che appassiva magari dopo i 35 anni, adesso, e questa è una fortuna perché vuol dire che comunque questa società ha eliminato qualcuno dei suoi parocchi, va avanti, e il merito è anche loro, che rimangono comunque molto affascinanti, e nel caso di Salma Hayek pieni di talento, nel senso che Salma Hayek a mio parere sembra sempre più bella, anche perché è sempre più brava, è cresciuta moltissimo. Jennifer Lopez un po' meno, ma secondo me anche la materia prima era scarsa fin dall'inizio, insomma, dopo U-Turn secondo me non ha mai poi raggiunto chissà quali vette. Quindi se vi piace proprio il genere e magari siete degli adolescenti che sognano Jennifer Lopez, vedetelo. Altrimenti, insomma. Assolutamente, se siete nei panni del protagonista del film, tutto sommato, come dire, si può fare. Allora, il ragazzo da porta accanto, adesso però invece giochiamo insieme, perché nonostante il caldo si faccia sentire, noi i film ve li regaliamo sempre, e allora andiamo ad ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Anche stavolta siamo stati noi i vinti. Come? Sì. I vincitori sono i contadini. Soltanto loro. Capolavoro, capolavoro questa settimana alla Rosa Purpurea per il nostro DVD Game, più tardi un'altra traccia. Se però avete già indovinato, scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, e diteci di che film si tratta e anche il vostro indirizzo, e vediamo, vedrete settimana prossima, sentirete quella Rosa Purpurea, se sarete fra i fortunati vincitori. Altro giro di giostra con le novità al cinema, stavolta ci spostiamo in ambiente decisamente fantascientifico con un film che si intitola Il luogo delle ombre, rapimenti alieni, presenze aliene a disturbare la vita tranquilla di Anton Yelchin. Mi chiamo Odd Thomas. Non sono una star, non sono figlio di una star, ho sposato con, ho maltrattato da, né ho mai donato un rene a una star. Però ho una vita insolita. Ho trovato la porta per l'inferno. Hai parlato con i morti? Non coi morti, signore. Con chi potrebbe esserlo presto? C'è uno di quei Bodak lì intorno. Sono dappertutto. La loro apparizione è segno che stanno per avvenire carneficine e massacri. Se si rendono conto che li puoi vedere, quelli ti fanno fuori. Ho tanta paura per te, Oddi. E allora, Il luogo delle ombre, Odd Thomas, questo il film di cui vogliamo parlarvi. Dicevamo, protagonista Anton Yelchin, che tra l'altro abbiamo incontrato già nella scorsa settimana con Il nemico invisibile, di fianco a Nicolas Cage, insomma un po' il suo momento sullo schermo italiano, un momento estivo per un film che, come dicevamo, è in chiaro ambiente fantascientifico, Boris, la storia di un onesto lavoratore di una tavola calda americana che si trova a un certo punto al centro di una situazione di presenze e di rapimenti alieni, e il film scivola un po' verso quelle abduction che sono state la matrice di tanto cinema fantascientifico americano. Sì, continuando a fare il paragone con quello di cui abbiamo parlato, diciamo, se Il ragazzo della porta accanto è il termine negativo, Il fidanzato di mia sorella è quello positivo, probabilmente Luogo delle ombre si situa nel mezzo, nel senso che è un film a suo modo interessante, ha un problema enorme che è quello di mettere insieme troppe tematiche horror, fantasy, fantascientifiche, nel senso che ne mette in fila un po' troppe, dai premorti tra virgolette all'inquietudine di chi può gestire le ombre e via dicendo, insomma anche la preveggenza. Davvero troppe cose messe in fila. Di contro però un Anton Yelchin che purtroppo è l'eterna promessa, lo dicevamo nell'altra puntata, lo continuiamo a dire, bravissimo, pieno di talento, però per chissà quali meandri di Hollywood probabilmente un agente scarso non riesce mai a sfondare realmente, e quindi si ritrova in questi film in cui è sempre poverino più bravo del film, di quanto sia buono il film. In questo caso a me piace molto di più il côté emotivo del protagonista, cioè Anton Yelchin riesce a dare a questo eroe normale, perché è appunto cuoco di una tavola calda, che ha un potere che è pericoloso per sé, ma potrebbe comunque essere utile per gli altri, che è un po' goffo e buffo, alcune volte, anzi spesso, fa sorridere, è tenero, e tutto questo aspetto tra quello che lui vede e quello che lui rischia e quello che lui è realmente, secondo me è giocato molto bene. Incredibilmente il film pecca, secondo me, invece nella parte in cui in teoria doveva andare più sul sicuro, cioè sull'inquietudine, sulla paura, sul fantasy e sulla fantascienza. Cioè lì, soprattutto andando avanti, soprattutto quando arriva l'uomo delle ombre, piano piano il film perde colpi. Cioè quando Anton Yelchin deve entrare in azione contro chi è cattivo e noi perdiamo, insomma, l'opportunità di conoscerlo, e lì il luogo delle ombre un po' fuma, ecco, entra nelle ombre, e quello è un peccato perché sono riusciti a fare la cosa più difficile e si sono persi in quella più facile. Per gli amanti del genere, sempre contando che è estate, probabilmente in inverno vi consiglierei di non andarlo a vedere, può anche bastare. E allora, se può anche bastare, adesso noi ci fermiamo un attimo perché abbiamo raccontato un po' le uscite, ce n'è un'altra di cui vogliamo parlarvi fra poco, vediamo se risolverà la settimana o se invece le cose sono destinate estivamente, diciamo, ad andare avanti così. Si tratta di Tracers, però ne parliamo fra poco. Diceva Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Indovina chi viene a cena, si occupa di identità e preconcetti, in cucina come negli incontri che facciamo. Ogni settimana ospitiamo un italiano con radici altrove che racconterà la sua storia anche attraverso un piatto. Fra couscous e risotto intorno ai fornelli si parlerà di contaminazioni e false credenze, verso il cibo e non solo. You've got to... Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 23 con Indovina chi viene a cena e quest'estate anche la domenica alle 13.30. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7.10 del mattino qui a Radio 24. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea per parlare dei film in circolazione in questo fine settimana, in questo inizio d'estate sugli schermi d'Italia. Come abbiamo capito, non è che sia proprio la settimana più bella dell'anno, per il momento alla fine conviene andare a vedere Il fidanzato di mia sorella, con tutte le riserve, però insomma almeno un film dal quale non si esce troppo delusi. Vediamo se c'è qualche speranza in più per questo Tracers, thriller d'azione questa volta, un ricercato da un bike messenger, quelli che portano la posta sulle biciclette a New York, ricercato dalla mafia, insomma film pieno d'azione e anche un po' di freestyle, se vogliamo. Sentiamo la clip. You see Cam? Where in the hell is he? Cam, where you at, buddy? Cam! Uptown Express, okay? Tanto per sottolineare quanto ci contino su questo film, al momento di andare in studio di registrazione per questa puntata non c'era ancora il trailer in lingua italiana, però insomma noi ve lo proponiamo. Tra l'altro potrebbe essere anche che l'uscita slitti di qualche giorno, comunque lo troverete se siete bike pony o se siete di New York o vi piace New York, potrebbero essere degli attu. Il film è firmato con la regia da Daniel Ben-Mayor, ma gli attori sono soprattutto l'attore protagonista Taylor Lauer. Boris, qualcosa da dire in sua discolpa? No, assolutamente no, se non forse che è riuscito ad essere il film più brutto del 2015 fino adesso e che forse ha rietrato un bale sulla carriera già fragilissima e flebile di Taylor Lautner. L'unica cosa bella del film è la protagonista femminile, questa Nikki, che ha un nome, ha un cognome greco che non proverò a ripetere perché è più difficile di un terzino della nazionale ellenica. Ed è l'ennesimo film sul parkour che in particolare in Francia è un fenomeno straordinario e anche molto interessante e che ha trovato molte persone, molti registi che volevano insomma in qualche modo raccontarlo e che regolarmente si perdono un po' come in Step Up nelle acrobazie, qui tra l'altro neanche particolarmente belle e neanche particolarmente ben riprese. Mettendoci su sempre, e questo non l'ho capito perché almeno Stefan ha l'intelligenza di rimanere sul tema, di abbinarlo a una trama che voglia essere d'azione, che vuole essere thriller, che vuole essere qualcosa che insomma induca a far pensare che chi fa quel tipo di acrobazie in bici sia un duro, che è più, molto difficile, no? Vedere qualcuno che si alza con la bici, fa acrobazie e pensare che poi potrebbe uccidere un mafioso o gabbare un grande criminale. Quindi c'è questo ossimoro folle che nessuno sceneggiatore che si è occupato di parkour fino adesso ha capito e qui diventa però una costante occasione per parodiare sia il genere di la disciplina sia il genere cinematografico, perché davvero si fa fatica a non ridere dei dialoghi, a non ridere dei momenti, a non ridere delle inquadrature. L'unica cosa che mi viene in mente è che davvero il parkour in Italia, ed è vero, stia crescendo e che quindi pur di vedere un po' di parkour quella nicchia riempirà i cinema, e me lo auguro, insomma, per la casa di distribuzione. Mi permetto delle perplessità. Comunque, detto questo, Boris, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo la settimana prossima, sarà il 1 agosto, comincerà la lunga estate della Rosa Purpurea anche con le novità in sala del prossimo autunno, però insomma qualcosina da dire ancora sull'attualità ce l'avremo e Boris Solazzo sarà con noi. Ciao Boris. Alla prossima settimana con cinema. E allora è il momento di giocare nuovamente insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Peccato, è finita pari. No, ho vinto io. E perché? Con le spade saresti morto. E con le spade potreste anche orientarvi, tutto sommato, su questo capolavoro della storia del cinema. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo privato per provare a vincere una delle due copie di questo cofanetto nuovo che è uscito e che vi sveleremo la prossima settimana. Adesso dedichiamoci al doppiaggio. Chissà se Darryl è già a casa. Chissà se Jimmy è tornato. Ma perché non lo mandi al diavolo una volta per tutte? E tu perché non pianti quella specie di marito? Eh? Premio Leggio d'Oro, gli Oscar possiamo chiamarli del doppiaggio italiano a Massa Carrara, come tutti gli anni il meglio, il gota del cinema italiano per come lo sentiamo noi, degli attori di tutto il mondo per come arrivano nelle nostre orecchie su quel palcoscenico. Come scrive la nota stampa, alla serata presenti Chuck Norris, Susan Sarandon, Jessica Alba, Keira Knightley, Meryl Streep, Roman Polanski, ovviamente nella versione delle voci italiane, di quelle che ce li hanno avvicinati e ce li hanno fatti conoscere. E noi abbiamo aperto con una clip di Thelma & Louise, perché nel dialogo avrete riconosciuto la voce che è stata per l'Italia la voce di Susan Sarandon, Rossella Izzo, che è in collegamento con noi. Ciao Rossella. Ciao, buongiorno a tutti, che gioia. Poi devi sapere che questo film, Thelma & Louise, mi ha dato una grande soddisfazione, perché ho vinto per questo film il Nastro d'Argento, che è un titolo molto molto caro a noi attori. Assolutamente, assolutamente, perché ricordiamolo Rossella, hai detto bene, i doppiatori sono soprattutto attori. Assolutamente, è un mestiere che non si può fare se non c'è una base molto solida di attore, perché doppiare paradossalmente è ancora più difficile che recitare, in quanto tu devi riemulare, entrare nel percorso di un altro attore, e sempre sono attori di grande talento come Susan Sarandon, che io poi ho avuto anche la gioia di conoscere qui in Italia quando era moglie di Franco Amurri ed era in attesa della sua piccola Eva, mentre io doppiavo Io il Duce, lei ha detto io voglio solo la tua voce, io voglio solo la tua voce. È stata una grande, grande soddisfazione per me. Poi ho conosciuto anche Meryl Streep. Sì, perché anche Mary Streep è stata una delle tue clienti, fra virgolette. Io diciamo che divido la gioia di doppiare Mary Streep con una grande doppiatrice che si chiama Maria Pia Di Meo, e devo dire che per me incontrarla è stato meraviglioso, perché figurati, io sono andata ad una mostra, suo marito è scultore, sono andata ad una mostra qui in Italia del marito, e a un certo punto io mi avvicino a lei e le dico signora Streep, io sono la persona che in Italia molto spesso la doppia, e lei chiama suo marito, Phil, Oh, it's my Italian voice! Dico, con un affetto, con una gioia, con un trasporto, che io veramente mi sono rimasta assolutamente di sale. Tra l'altro Meryl Streep l'hai doppiata anche, oltre a film storici come Heartburn, Affari di cuore, sì. Che so, Un grido nella notte, eccetera. Però c'è anche Mamma Mia, hai anche cantato lì? No, assolutamente, non ho cantato, perché come sai Meryl Streep nasce come cantante e non come attrice, quindi lei è una bravissima cantante e chiaramente hanno tenuto la colonna inglese, ma quando abbiamo fatto il provino che è andato in America, io ho dovuto fare un piccolo pezzo cantato perché volevano valutare la voce che più le si avvicinasse ai suoi toni, e quindi siccome lei smette di cantare e comincia a parlare, sono io che parlo, abbiamo fatto tutto uno studio, proprio un vero e proprio diagramma fonico per valutare qual era la voce tra me e Maria Pia che le si avvicinasse. Assolutamente, è proprio a quello mi riferivo, certo che ha cantato lei nel film, però effettivamente ci sono momenti di uscita da una canzone nei quali il salto sarebbe troppo brusco. Addirittura ci sono momenti in cui lei canta e dice delle cose e sono io naturalmente che le dico in italiano rispetto alla colonna internazionale dove lei le dice in inglese, e quindi ci sposiamo e abbiamo matchato le voci per poterci avvicinare il più possibile l'una all'altra. Senti, parliamo soprattutto del Leggio d'Oro. Il Leggio d'Oro è un premio istituito dal patron Benedetti proprio per dare luce a questo lavoro che viene svolto al buio e resta un po' al buio, e devo dire che è stata una grande iniziativa anche di Batteroni, e dare lustro agli attori e ai doppiatori. Quindi per me è una grandissima gioia, è già la terza volta che io partecipo al Leggio d'Oro, ma devo dire che questo premio, che ormai ha 20 anni, è davvero uno dei più prestigiosi ed è veramente organizzato con grande qualità, grandissima. Rossella, tu, oltre a una grande doppiatrice, regista, attrice, sei anche una direttrice di doppiatori, cioè sai come muovere un cast vocale. Trovi anche tu che negli ultimi anni, probabilmente anche per una crisi economica che si è abbattuta pure sulle compagnie di distribuzione, a volte il doppiaggio italiano abbia un po' perso rispetto a quello della vostra generazione quella potenza che ne faceva il miglior doppiaggio del mondo? Ma io non credo. Sai, io devo dire, credo, mi sembra che ultimamente il doppiaggio abbia ripreso quota, anche perché sia un pochino ristretta la cerchia di chi viene utilizzato, e sono tutti veramente i 1500-1800 doppiatori, di più non ce ne sono in Italia, attori e doppiatori. Poi c'è sempre adesso più proprio comunicazione tra l'arte del doppiaggio, il teatro, la cinematografia e la televisione, quindi diciamo c'è un grande scambio. Miei colleghi come Mario Cordova, che hanno lavorato, io ho fatto 100 film per la televisione come regista, Mario Cordova, e tra l'altro oggi come oggi nel doppiaggio vengono utilizzati dei talent, vedi mio genero Luca Argentero, vedi Marco Mengoni che ha lavorato con mia sorella Fiamma in un film e tra l'altro è stato anche presente al Leggio d'Oro di 2 anni fa. Quindi ti dico, c'è un grosso interscambio che a mio avviso, contrariamente a qualche tempo fa, perché c'è stata una crisi della qualità del doppiaggio, oggi credo che sia superata. Ecco, com'è lavorare invece, Rossella, con i film d'animazione, cioè con personaggi non in carne e ossa? Ti puoi sbizzarrire quasi di più, no, in un certo senso? Assolutamente sì, ma hai sempre una traccia che parte dall'originale e che devi proprio seguire come un vademecum, come il Vangelo, cioè devi veramente attenerti. Per me il miglior doppiaggio è quello che si attiene maggiormente a quello che ha voluto il regista. Io ho un grande rispetto per l'autore, sia per l'autore della scrittura, quindi non mi piace travisare il dialogo facendo la modifica dell'adattamento italiano più di tanto, e anche travisare la qualità, quello che ha voluto il regista. Io cerco veramente di entrare nella testa del regista, forse più da regista quasi che da direttrice di doppiaggio, ma i due lavori si equivalgono, sono molto vicini, molto sintonici l'uno con l'altro. Però devo dire che tu devi fare quello che devi riemulare quello che ricevi, cercando di farlo altrettanto bene, e qualche volta ci riusciamo, qualche volta meno. Può capitare a tutti. Però Rossella, certo, ti chiedo un'ultima cosa. C'è un film, c'è un'attrice che tu hai doppiato più volte, che è Julianne Moore, e che una volta l'hai doppiata in un film che mi sta particolarmente a cuore, uno dei miei film preferiti in assoluto, ovvero Vania sulla 42esima strada di Louis Malle. Cosa ricordi di quell'esperienza? Ma tu non sai quanto ho amato questo film per due ragioni. È stato uno degli ultimi lavori che io ho fatto con mio padre, che era direttore di doppiaggio di questo film, ed è un film che ho amato particolarmente, primo perché io amo da morire Chekhov, avendo la mia preparazione umanistica, delle basi che mi hanno aiutata anche a capire bene l'autore. Però ti devo dire che ho amato tantissimo questa attrice e tantissimo questo film, che è veramente un pezzo di teatro, di cinema e di vita davvero difficile da riemulare. Anche io sono particolarmente affezionata a questo film, tantissimo, lo amo molto. Ma io poi, sai, ho una simbiosi con le attrici che doppio, entro proprio in sintonia con loro. Quando ho fatto Affari di cuore, io mi stavo lasciando con mio ex marito dopo 20 anni di matrimonio, e la storia di Affari di cuore tra Meryl Streep e Nicholson è molto simile, scritta poi dalla grande Nora Ephron, ma io ti dico, ho avuto un'emulazione con il mio personaggio, piangevo insieme a lei mentre ci separavamo, sia io che lei, nella storia. Incredibile. Beh, insomma, bella simbiosi, bella voce, grande attrice, grande doppiatrice. Rossella Izzo alla Rosa Purpurea, Leggio d'Oro, vi ricordo, il premio del doppiaggio italiano. Grazie Rossella per essere stata con noi. Grazie a te, un bacio grande, salutami i tuoi grandi spettatori, baci. Oh, mia incantata. spietevole, mia meravigliosa, no. Mia... Prego, la smetta. Lei mi disgusta. Che bella giornata oggi. Non troppo calda. Un tempo ideale per... Rossella Izzo alla Rosa Purpurea, a questo punto di nuovo viabilità, torniamo fra poco con tutto il cinema che c'è anche da vedere in casa. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, quarta parte della Rosa Purpurea, dopo aver parlato di doppiaggio parliamo di cinema degli anni 60, di cinema che avrebbe avuto tanto bisogno di essere, come dire, diffuso in maniera diversa e che finalmente trova una strada sul grande schermo in Italia. Stiamo parlando dei capolavori del maestro giapponese Ozu, uno dei massimi esponenti della storia del cinema in generale, il cui cinema... è stato il cui quei sei film, i sei capolavori sono stati restaurati e stanno pian pianino uscendo, trovando spazi in alcune sale cinematografiche italiane. La settimana scorsa vi abbiamo parlato di Viaggio a Tokyo, forse il film più famoso, quello che secondo una classifica di critici americani è addirittura il più bel film della storia del cinema, tout court. Sicuramente un capolavoro che sta andando fortissimo anche nei cinema dove viene proiettato. Questa settimana con Giorgio Palcereani, che per il Far East di Udine ha un po' coordinato questo restauro e questa diffusione attraverso l'Attacker, ci soffermiamo su un altro film. Andiamo a raccontare Il gusto del sakè, un'altra delle pellicole di questi capolavori restaurati che stanno girando per le sale italiane. Allora, ascoltiamo la clip e poi il commento su questo film di Giorgio Palcereani. おかげで苦労しましたよ。帰ってみると、うちは焼けてるし、食い物はねえし、それに物価どんどん上がりやがるしね。おい、レコードやめろ。はい。それでね、女房の親父から銭借りましてね、今のポンコツ屋始めたんですわ。それがどうやら当たりましてね、まあまあ。 E l'ultimo film fra quelli restaurati in ordine di tempo è Il gusto del sakè del 62. Sì, che è l'ultimo film di Ozu, e Ozu morì l'anno dopo mentre stava preparando un altro film. Anche questo riprende il tema di tarda primavera, tardo autunno, cioè il problema del matrimonio di una figlia. Però direi che in questo film i giovani appaiono molto più duri, molto più critici e molto più moderni che non nei film precedenti. Ed è anche un film intriso di nostalgia, dove c'è una scena molto divertente e insieme commovente, in cui il protagonista incontra un suo ex commilitone e insieme si perdono nei ricordi del tempo di guerra, non perché fosse bella la guerra, ma perché era bello il tempo della giovinezza. E grazie a Giorgio Placereani del Far East di Udine, che ci ha così illustrato in una pillola, come faremo anche nelle prossime settimane, i capolavori restaurati di Ozu, che dovete andarvi a cercare un po' nei cinema. Hanno lavorato molto su questo progetto il nuovo Sacher di Roma e all'Anteo di Milano, però andate su internet e cercate, perché ove questi film siano distribuiti nella vostra città lo scoprirete subito e assolutamente vanno visti. È in collegamento con noi Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Grande cinema da riscoprire quello di Ozu, eh? Ti piace? Assolutamente sì, abbiamo dedicato recentemente un editoriale anche su Film TV a questa iniziativa. Grande iniziativa, peraltro in un video il cinema di Ozu si reperisce, si trova, tanto comunque la lingua è sempre quella originale, quindi potete anche magari trovarlo sui mercati internazionali. Che tu sappia, Giulio, questi sei film hanno o avranno una distribuzione on video in Italia? Sì, l'Attacker, oltre a curare l'uscita in sala e anche un omaggio cartaceo con un volume appunto di Giorgio Placeriani, Autunno e Primavera, garantisce l'uscita dei sei film in DVD tra Natale e il principio del 2016 con Cecchiori a un video. E beh, allora quindi c'è anche la possibilità, ci sarà la possibilità, ne riparleremo ovviamente, di avere questi film per poterli ammirare in casa, anche perché il restauro è stato in 2K, quindi comunque c'è una grande qualità che sembra fatta apposta per il Blu-ray, diciamo così. Allora Giulio, torniamo a noi e torniamo al game della scorsa settimana a risolvere il nostro quesito di 7 giorni fa. Siamo molto contenti che Nasilo abbia potuto unirsi a noi. Ma ci avete messo 4 minuti, vi dovreste vergognare, ragazzi. Un super classico della commedia come Un poliziotto alle elementari era il film della scorsa settimana. I nostri vincitori verranno avvisati dalla nostra segreteria, perché qui fra ovviamente ferie ed estate non riusciamo a essere perfettamente sul pezzo al momento, alla settimana, però sicuramente pian pianino avviseremo tutti. Intanto raccontiamo un po' questa uscita a un video, perché il film non è proprio recentissimo. Cos'ha di più questa uscita in un video? Sì, passiamo da Ozu a Schwarzi, siamo sulle tracce di un narcotrafficante, il poliziotto Arnold Schwarzenegger finisce come infiltrato nel corpo docente di un asilo, cattura il nemico e riesce pure a farsi amare come maestro, mentre nelle fale c'è ancora l'ultimo Terminator, uno di quei abbiamo in DVD uno di quei film in cui Schwarzi giocava e addolciva la sua icona da macho, è un film per famiglie, un cult d'infanzia, soprattutto perché è cresciuto negli anni 90, firmato da un artigiano coi tempi della commedia d'azione come Ivan Reitman. L'edizione Blu-ray DVD non ha molto in più, anzi in realtà una vera pecca, nel senso che c'è solo la traccia audio italiana, e questo è un po' un difetto, ma comunque è un film che nelle videoteche degli amanti del genere, di questo piccolo cult per l'infanzia, non può mancare. E allora, Un poliziotto alle elementari, il nostro game della scorsa settimana. Andiamo come sempre a dare un'occhiata alle segnalazioni TV. Elsa Poppin alla grande qui, perché come diceva Giulio, da Ozu a Schwarzi a Paprika sognando un sogno. Siamo di fronte invece a un capolavoro dell'animazione che la F ci mostra lunedì 27 luglio alle 22:50. Sì, se n'è andato 5 anni fa Satoshi Kon, il 24 agosto del 2010, ha nemmeno 50 anni, ma ci rimangono per fortuna i suoi film, che sono veramente, come dicevi, dei capolavori del cinema, non solo dell'animazione ma tuttora, come questo Paprika, Sognando un sogno, appunto, che è un'indagine onirica che, volendo, anticipa anche le scatole cinesi sognanti di Inception, e che è veramente un tripudio di immaginazioni irrefrenabili, una matriosca inesauribile di invenzioni cinematografiche, un film veramente liberissimo che copre ogni gamma delle emozioni possibili, davvero imperdibile. Finché tra l'altro era stato presentato in anteprima mondiale proprio a Venezia nel 2006, e invece a Cannes era stato presentato nel 1988 con la regia di Emir Kusturica Il tempo dei gitani, che poi vinse il premio per la miglior regia in quel festival. Sì, figlio di un soldato e di una zingara, a Sarajevo viene trascinato in Italia, a Milano, e costretto a rubare e trafficare in bambini per poi cercare vendetta. È un racconto di formazione girato prima della guerra, è la storia di un ragazzo innamorato che scopre la brutalità del mondo, è pieno di quel senso per il realismo magico che contraddistingue, diciamo, i migliori film di Kusturica, che è sempre stato attento ai riti del popolo e trascinato, e anche in maniera tale che si perde nell'improvvisazione dei suoi attori. Raramente Milano è stata mostrata così in maniera periferica e colorata, ma anche così dolorosa. Tra l'altro del film esiste una versione di 5 ore fluviale e fuori controllo, come d'abitudine per l'autore di Underground. E anche in questi casi è un video molto spesso poi a regalarci la possibilità, se abbiamo voglia, di approfondire queste conoscenze. Ricordo il passaggio però, giovedì 30 luglio, Il tempo dei gitani sulla F alle 24 a mezzanotte, davvero un film da non perdere. Grazie Giulio, noi ci sentiamo comunque la prossima settimana, perché cercheremo di darvi ancora qualche consiglio per le prime visioni agostane. Sì, ciao Franco, buona settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata con Giulio San Giorgio. Si chiude la Rosa Purpurea, ultima puntata di luglio. Noi ci risentiamo, come dicevo, sabato prossimo, sempre qui alle 18, e in replica anche la domenica pomeriggio per questa estate, per raccontarvi tutto quel poco di cinema che c'è in sala, ma anche quel molto che sta per arrivare sulla prossima stagione, perché sarà la prima delle puntate agostane nelle quali cominceremo a raccontarvi quello che vedrete a ottobre, novembre, dicembre, insomma fino a Natale, sui grandi schermi d'Italia, con le interviste ai protagonisti. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisti.